Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La posizione di questo ragazzo, un trentenne, è sottoposta al vaglio, dovrebbe essere confermato il fermo. L'uomo è arrivato qui in questura, nella questura di Roma, intorno alle 18, si attende l'arrivo ovviamente della vittima, la donna, la tassista che è stata violentata da un cliente venerdì mattina all'alba proprio a Roma per un confronto cosiddetto all'americana. A quanto pare l'uomo che appunto in questo momento viene interrogato corrisponde all'identikit diffuso dalla polizia sulla base del racconto della donna, ovvero si tratta appunto di un ragazzo giovane, intorno ai 30 anni, altezza intorno a 1,70 m, capelli scuri, occhi piccoli, labbra sottili. Questa mattina la foto del rapinatore e stupratore della tassista romana è in molti profili Facebook e in molti giornali, siti online di giornali italiani, e la foto è stata tratta dal profilo Facebook. Sono andato a vederlo velocemente, adesso il profilo mi sembra sia stato tolto, per capire bene cosa raccontasse di sé un uomo che chiede a una tassista di essere portato in un posto, poi la prende a pugni, poi la violenta, poi le ruba 80 euro. Uno pensa a una persona che vive comunque borderline. No, è il profilo di un bravissimo ragazzo. La foto di copertina è la foto di una bambina, c'è lui in braccio a questa bambina, c'è lui con la foto con la moglie, con la figlia, con la mamma, c'è le tre donne più contano nella mia vita. È tutto un profilo Facebook come quelli di tante persone, zuccherosi, con gli amici che ti mandano gli auguri per i compleanni, con le foto delle torte di compleanno, con le frasi, le massime di saggezza. Non ho visto, perché ci sono stato poco tempo, ci fossero anche state foto di gattini teneri, micini, o comunque sia, era il sito di quello che direbbe: ah, che bravo ragazzo. Io mi domando quale sarà la lettura postuma che faranno dell'umanità guardando i profili Facebook. Siamo tutti dei bravi ragazzi, siamo tutti delle impeccabili persone, siamo tutti gentili, amiamo tutti la natura, vogliamo tutti cibi sani. Però questo ragazzo ha compiuto un atto di estrema violenza che ha lasciato tutta la città perplessa, perché improvvisamente, lo dice chi prende molti taxi, conosce molte donne che prendono molti taxi, e tutti hanno pensato che girasse a piede libero una sorta di serial killer. Invece, come sempre spesso accade, è una persona come noi, è una persona normalissima che ha compiuto qualcosa che di normale in realtà non ha nulla. 800 24 00 24, come pensate che si debba in qualche maniera rivelare la vena violenta e crudele nei confronti delle donne, che molte volte è ammantata da una facciata di estrema normalità? Cosa si può fare per migliorare la vostra sicurezza? Io penso niente, bisogna essere fortunati, però proprio niente, perché anni fa c'erano le macchine con il divisorio blindato, però non si è risolto niente. La notizia, l'ultima mail che mi è arrivato da un amico, praticamente questa collega, penso del 35-70, e ha prelevato un cliente, questo qui prima che l'ha minacciata gli ha dato un pugno, da quello che ho capito, e l'ha costretta a un rapporto. Non ci hanno mai fermato per un controllo con i clienti a bordo. Consiglierebbe a sua figlia di fare la tassista a Roma? È un lavoro per donne? Ma io dico che tutti i lavori sono per le donne, perché la donna oggi è come l'uomo. Ma è venuta la voglia di armarvi? No, se ci dessero magari la possibilità di poterlo fare, tanti colleghi che non si sentono tranquilli, tra cui ci sto pure io, perché non è che mi sento Ulisse, insomma. 800 24 00 24, queste erano voci di tassisti raccolte nel sito del quotidiano romano Il Messaggero, e oggi vorremmo capire meglio se realmente le donne non porsi dei problemi per fare certe professioni. La tassista è una di queste professioni, sempre piacevole quando ti accorgi che il taxi che ha chiamato lo guida una donna. Non lo so perché c'è un'area diversa, più divertente, più simpatica l'atmosfera, è una persona gentile, se vuoi ci chiacchieri, se no non sei obbligato. Comunque sia, è qualcosa che dà l'idea del mondo che sta cambiando, cioè finalmente una donna può fare la tassista. Però se dopo si ascoltano i discorsi, i racconti di queste donne, senti che in realtà il pericolo è tanto, l'angoscia è tanta, c'è sempre degli sconosciuti dietro e non sai quale potrebbe essere la loro reazione. Roberto Massullo, buongiorno. Buongiorno a lei. Roberto Massullo è responsabile della qualità del servizio alla cooperativa Taxi 3570. La collega che ha subito questo atto di violenza fa parte della vostra cooperativa? Sì, è una nostra collega, e una straordinaria collega, una ragazza bravissima, gentilissima, che purtroppo ha vissuto questo incubo che l'altra volta in tutti i sensi, e quindi siamo vicini a lei, la nostra struttura la sta proteggendo. So che voi farete una specie di manifestazione, questa volta non è per rivendicare i diritti, ma semplicemente per richiamare l'attenzione sui rischi che corrono le donne che fanno questo mestiere. Sono tante a Roma, dicevo, è piacevolissimo. Mi servo anch'io alla vostra cooperativa, sono fra le più convenzionate con le aziende, quindi è facile incontrare donne tassiste. A me molte volte però è capitato di raccogliere, diciamo, confidenza alle vostre colleghe, dicendo che in realtà ci sono molti momenti nel vostro mestiere che loro hanno dei motivi di apprensione o di paura. Ma guardi, lei parla con un tassista che ormai è alla soglia dei 30 anni di servizio. Le faccio un piccolo esempio: quando ho iniziato io c'erano solo due colleghe che erano tassiste, oggi solo noi nel 3570 ne contiamo oltre intorno alle 300 unità. Quindi all'interno del contenitore taxi di Roma ce ne saranno, penso a questo punto, un 10%, quindi intorno alle 600 unità. Ecco, diciamo che sì, adesso vediamo quello che si organizzerà a livello, diciamo. Ma ci sono stati altri segnali per cui la donna tassista si è sentita esposta, diciamo, a avanze esagerate o momenti in cui aveva paura, diciamo, per la sua incolumità? Intanto le nostre colleghe normalmente vanno a prendere dei turni e hanno l'opportunità di scegliere dei turni quasi sempre diurni. Però ecco, quello che abbiamo notato questa volta è che il problema è successo in pieno giorno, quindi siamo alle 7 di mattina, tra le 7 e le 8 di mattina, e quindi questa fascia oraria che poteva sembrare una fascia oraria incline a qualsiasi tipologia di problematica si è rivelata invece fatale anche questa. Tra l'altro l'apparenza di un bravissimo ragazzo con un trolley, quindi un normalissimo viaggiatore come tanti altri. Sì, in questi giorni le devo dire la sincerità, molti clienti ci chiedono: ma come fate voi a fare uno screening al momento? Non esiste uno screening al momento, perché molte volte la persona che ti sembra più inadatta a poter portare con la macchina poi si risulta la persona più affidabile e viceversa. Quindi quello screening lì è, diciamo la verità, è impossibile. Tolto il fatto pure che da regolamento comunale il rifiuto della corsa da parte nostra potrebbe essere anche sanzionabile. Certo, non può essere discriminatorio. Perfetto. Senta, le dico una cosa, ma sono anni che sente parlare di taxi con sistemi di sicurezza, con un vetro di divisione, ammesso che questo sia possibile e non sia eccessivamente oneroso. È l'ora di cominciare a pensare a sistemi del genere, oppure è semplicemente un fatto isolato che non giustificherebbe un cambio generale di tutte le carrozzerie dei tassi italiani? Ma, guardi, le devo dire la sincera verità, sul vetro, su questo si dice il 90% dei clienti: ma perché non mettete un vetro? Intanto viviamo un momento di economia talmente critico che investire, ed ecco uno dei grandi problemi, investire anche sulla sicurezza. Noi in questi anni stiamo cercando di investire intanto sulla qualità del servizio per essere competitivi sul mercato. Investire anche sulla sicurezza, e qui noi dobbiamo assolutamente trovare un equilibrio con gli enti locali, con i comuni, perché io penso anche perché non sarebbe uno scherzo adattare le automobili a avere un abitacolo sicuro, perché se resta sicuro. Personalmente le dico una cosa: il costo di una blindatura della macchina è estremamente oneroso, enorme, non è una cosa molto facile e fattibile. C'è anche un aspetto di interazione con la clientela, perché parliamoci chiaro, cioè la bellezza di questo lavoro sotto certi aspetti è proprio quello, cioè il contatto anche umano che si viene a mancare nel momento in cui io chiudo e blindo una persona che sta a 20 centimetri da me. Ecco, quello che noi stiamo invece cercando di organizzare, e abbiamo chiesto... E una telecamera a bordo? Ci sarebbero dei problemi di privacy? Ci sarebbero. Eccolo qua, è la telecamera a bordo. La telecamera a bordo è un sistema oggi con le tecnologie che potrebbe anche andare. Siamo sempre lì, i costi sono estremamente importanti, e qui che stiamo cercando di trovare delle soluzioni con le istituzioni. Certo che selezionerebbe clienti, non tutti avrebbero piacere di essere filmati, diciamo, a bordo di un taxi. Anche la verità, possiamo anche dire questo, che teoricamente una macchina potrebbe essere, diciamo, un deterrente da parte di un malintenzionato a sapere che c'è una macchina con una telecamera a bordo a comando, parliamo di una telecamera a comando a circuito chiuso. Però potrebbe essere, in questo momento lo reputiamo la soluzione migliore da portare avanti. Almeno è un deterrente. Fermiamoci un attimo, scusi un attimo, c'è Giorgio, un suo collega chiama Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono Sergio da Milano. Ah, Sergio, scusi. Tassista. Intanto grazie, le fa onore lei che è così sensibile a parlare di una tassista che gli è successo questa cosa, perché forse vengono considerate magari anche un po' donne di serie B, anche perché la tassista in questo caso, che è molto grave, è anche una mamma di serie B, perché non ha diritto alla maternità, non ha diritto all'allattamento, non ha diritto a tante cose che magari la maggior parte delle donne hanno, e grazie a Dio. E quello che le voglio dire io, sì, sai, il profilo Facebook può sembrare un bravo ragazzo, ma non può passare il fatto che sia stato un raptus, perché diciamo dopo il raptus, la violenza, raptus è la prima cosa che uno dice quando viene preso in cose del genere, è chiaro, sì. Lo dico semplicemente perché è logico, ti trovi alla fermata una persona che puzza di vino con una bottiglia in mano, vestito in maniera improbabile, hai qualche perplessità. Da quello che abbiamo come unica metodo di giudizio, il profilo Facebook di un simpaticissimo, bravissimo, pulitissimo ragazzo dalla faccia sorridente e che ostenta moglie, figlia e mamma come i suoi tesori, viene da pensare sia molto bravo anche a simulare quello che non è. Poi non è che c'è stato niente, ha dato un pugno in faccia e ha operato, non è che nemmeno uno può giocare il fatto ma sarà stabilito un rapporto, no, gli ha dato un pugno e ha approfittato di lei e l'ha rapinata. Certo, però diciamo che non sono tanto d'accordo sul collega, perché poi è vero, in questo caso magari poteva essere anche equivoca la cosa, però diciamo che il colpo d'occhio per noi è fondamentale, sia di giorno che di notte. Però come fa a rifiutare una corsa, a meno che... In questo caso diciamo che l'apparenza potrebbe avere tratto in inganno la collega, anche l'orario diciamo diurno non comporta magari al girovagare di certi soggetti che sono più... Ma lei da Milano ha notizie di fatti non così cruenti ma simili accaduti a sue colleghe? Ma guardi, a Milano sono 800 donne, a Roma sono un migliaio, e parlando con le colleghe c'è anche l'atteggiamento di qualcuno di voler eccedere per il fatto che si tratta di una donna, quindi... Si sente in diritto di fare il lumacone. Fermiamoci un attimo, però devo dare il traffico che già è tardi, fra un istante riprendiamo. Melog, cronache meridiane. Zero zero ventiquattro, stanno arrivando molti messaggi, le persone danno suggerimenti di tipo tecnico, nessuno si pone il problema che in realtà è sul livello di civiltà che dobbiamo magari farci qualche altra domanda. Comunque dicono che ci sono i taxi ad esempio negli Stati Uniti, poi rispondendo agli ospiti, che hanno una griglia dietro, costa poco, una griglia metallica, però è un inizio di sicurezza. Un altro dice sulla metro c'è la telecamera sempre accesa, deve esserci anche sul taxi. Dice aveva un pulsante per dare l'allarme. Poi dice bisogna metterci un lettore di impronte digitali. Poi da 50 anni a New York hanno la blindatura antiproiettile. Mi chiamo Patrizio, faccio la tassista a Milano, Patrizia, e lavoro fino a l'una di notte. Confermo, non è questione di orario, ma solo di fortuna. Ho avuto un'esperienza con un ubriaco ed effettivamente mi sono un poco spaventata, ma sono fatalista. Purtroppo ne sono venuta fuori senza problemi. Tutta la vita pensarci bene è sempre un rischio. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io ho viaggiato molto e viaggio ancora parecchio, pur avendo 70 anni per lavoro, e ho tantissime volte preso i taxi di notte e spesso mi è capitato di vedere, di avere al volante signore che guidavano nella città alle ore, diciamo anche le prime ore dell'albero. Ho sempre pensato che questi conducenti sono facilmente a rischio, perché primo, I nostri conducenti sono fra i più garbati del mondo, vengono fuori dalla macchina, ti aprono il bagagliaio, ti mettono le valigie, in quel momento sono già in preda, diciamo, a un possibile delinquente. In America le valigie te le metti su per conto tuo, hai una griglia dove praticamente alla fine paghi e c'hanno normalmente un sistema d'allarme che permette di lanciare un segnale a quelli che possono essere i colleghi nei dintorni. Noi in questo caso, mi permetta se la interrompo, prego. Era stato accorto il criminale di andare in una zona molto isolata, se anche avesse lanciato l'allarme non era così immediato ci fossero clienti. Ma la signora, anziché scendere, fosse rimasta dentro nella macchina con le porte bloccate e con la griglia dietro, probabilmente aveva sì, certo, non poteva fargli nulla in questo caso. Io guardi, parto da un concetto: noi andremo di fronte sempre a una società che avrà dei delinquenti in giro qualunque ora del giorno, della notte, aumenteranno. E quindi dobbiamo prendere, al di là, diciamo, di quello che io consiglierei assolutamente di non fare, di armare i conducenti. Entrambi in un loop che non se ne esce più. Quando non arriva la tenere in mano la devi urlare, se la tiri fuori solo per sì, ma qua le ha dato un pugno in faccia, non avrebbe fatto nemmeno, cioè solo nei film. No, non è Kill Bill, era una signora che faceva la tassista e si guadagnava il pane con quello. Non devono scendere dalla macchina, devono rimanere al loro posto guida, devono avere una possibilità di, diciamo, di ricevere il denaro o sentire l'indicazione con una protezione fra i sedili, e il cliente si carica la sua attesa. Sentiremo adesso il rappresentante tassista cosa dice. Sentiamo Enrico ancora, voglio sentire qualche altra telefonata. Enrico, buongiorno. Buongiorno, io chiamo dal Veneto. Sì. Volevo solo dire, ormai una città come Roma non hanno ancora le telecamere, i sistemi di sicurezza, perché ad esempio su Padova, Vicenza, Verona, questi sistemi ci sono già da molti anni. E come funzionano? Ci racconta come funzionano, perché non ce li ho presenti. Ci sono delle telecamere che registrano praticamente dei studi di fotogrammi, e poi per la privacy c'è un articolo, adesso non mi ricordo, comunque. Beh, ci sarà una dichiarazione informata che ti dico, esatto. Se sali in questo taxi sei ripreso, esatto. Come davanti alle banche. Sì, esatto. Allora, Roberto Massullo, ricordo che è responsabile qualità servizio per la cooperativa Taxi Romano 3570. Come mai a Roma non ci sono ancora le telecamere, visto che in altre città d'Italia ci sono? Ma assolutamente non è vero questo. Assolutamente, la nostra cooperativa ha circa 500-600 unità, che normalmente sono quei tassisti e quelle ragazze che spesso e volentieri vanno a fare delle turnazioni notturne, si stanno adoperando. Quello che noi ci stiamo adoperando per fare da qui al prossimo futuro è un'installazione completa su tutto il nostro parco. Perché adesso mi scrivono che anche a Bologna ci sono le telecamere, a lei non risulta? Certo. Ma noi a livello anche di Uri a livello nazionale. Ah, ci sono, quindi? Ci stiamo adoperando per... No, assolutamente, noi abbiamo una centrale interattiva, nel momento che si va in allarme ci sono tutti i fotogrammi che vengono registrati, e io in questo momento sono nella nostra centrale operativa. E se un tassista che ha la telecamera va in allarme. Ma quindi a Roma ci sono tassisti con la telecamera? Assolutamente sì. Pensavo che fosse. E perché non la mettono tutti, così stanno più tranquilli? Le stavo dicendo che ci stiamo adoperando con le nuove tecnologie, perché stiamo studiando anche qualcosa di leggermente più sofisticato sotto certi aspetti, perché le tecnologie vanno avanti e quindi comunque ci vengono propinate anche nuovi sistemi. E quello che noi vogliamo, trovare delle soluzioni anche economicamente vantaggiose per la nostra categoria. Sì, perché ci vuole, diciamo, una scheda SIM Ma non è solo la scheda SIM, è tutto un sistema a bordo, deve avere una centrale che comunque è interattiva col sistema dentro la vettura, non è facile. In quel caso c'è scritto sul taxi che quel taxi certo, è dotato di telecamere. Come diceva il signore, adesso non mi ricordo, il signor Enrico, anche per a tutela della legge sulla privacy, tu sulla tua vettura devi avere esposto sullo sportello di ingresso che il taxi è un taxi videosorvegliato. Ecco, se quella signora avesse avuto la telecamera probabilmente sarebbe stato un deterrente per quella persona che ha fatto quell'atto di violenza. La ringrazio, grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani.